Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Africa! Oh! Butta salva gente! Butta salva gente! Oi! Qua butta! Butta! Vai! Oh! Qua, vici! Questo c'è la mano. Questo è scemo! Oh, marinese di te! Omra, come tu drubne che da, vai via, vai! Ma falla morire a sto punto! No! Poi alla fine è morto davvero Pete Saballi, aveva 22 anni, si è buttato nel Canal Grande e forse voleva veramente morire. Il video oggi lo vedete su tutti i giornali, è commentato, è anche una bella storia. Partito dalla Sicilia dove ha ottenuto un permesso di soggiorno motivi umanitari, è scappato dal Gambia, è arrivato a Milano, aveva preso un treno a Venezia, è uno storytelling perfetto del povero immigrato che arriva sulla riva del Canal Grande e si suicida. Questa è una maniera per raccontare questa storia, di cui lui è glorioso protagonista, ahimè, glorioso in quanto è morto. Ma i protagonisti di questo video, di cui oggi i giornali hanno naturalmente fatto saccheggio, io stesso faccio saccheggio questa mattina, che invece di fare qualcosa di concreto, comunque commentavano, era un commento in diretta, commenti anche abbastanza rudi, guarda, Africa, lascialo morire, guarda questi, ma è proprio scemo. Non prende salvagente, vero? Non prende salvagente. Gli tirano tre salvagente, ma lui alza le braccia e infila la testa sott'acqua. Era determinato a morire. Certo, quelli che stanno a due metri potranno anche provare a fare qualcosa. Magari provare a tirarlo su, buttarsi dentro. Sarà stato uno capace di nuotare. Già hanno obiettato, ma provate a salvare un essere umano, è difficile. Certo, ma se al posto di un immigrato che si suicida ci fosse stato un tenero cucciolotto, cosa avrebbero fatto? Oggi erano sulle pagine di tutti i giornali. Oggi sarebbero stati nel salotto di Barbara D'Urso con il cucciolotto bello, lavato, asciugato con il phon. L'eroe che ha salvato il cucciolotto. Dico qualcosa di Peregrino? Beh, ve la ricordate la sequenza? Ne parleremo tra un po' di tutto questo. Dei figli di Nuvole Lupo, tre batuffolini bianchi salvati all'hotel Rigopiano. Belli, i tre vigili del fuoco che li prendono, i tre soccorritori li portano dentro il camioncino. Tutti si commuovono. Per giorni e giorni i tre cucciolotti sono stati al centro delle cronache di un episodio in cui ci sono ancora cadaveri di esseri umani che vengono tirati fuori dalla neve. Beh, questo è il racconto della realtà. Benvenuti, signori, nel mondo moderno. Non sono un moralista, non impongo regole morali, non ho assolutamente nessun principio etico se non quello di raccontare cosa sta accadendo in questo momento. Che anche Instagram ci permette la diretta, pensate che bello. Tutti potremmo raccontare il mondo, se lo raccontiamo in maniera estroversa, eterodossa, divertente, urticante, i grandi giornali lo metteranno in prima pagina, con grandi titoli, come quello che oggi fa Toni Damascelli sul giornale. Dio non è abruzzese, e parte col profeta Isaia, per dire che il Dio vendicatore si è accanito sull'Abruzzo. È una notizia questa? Probabilmente. Questa è l'esatta sintesi dei tanti commenti che si fanno nei grandi social, in cui la gente dice, ma Dio mio, dov'è finito Dio? Esce una persona viva, ah, Dio ha fatto il miracolo, ma è lo stesso Dio che ha fatto cadere la valanga, ma questo non importa, è marginale. 80024 0024, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Che bello, un piccolo miracolo. Un miracolo di così, di sole, questo. Non ci si sperava più, ragazzi. Se c'è speranza per loro, c'è speranza anche per le persone. Sono i figli di Nuvola e Lupo. Sì, erano nel locale caldaia. Loro l'abbiamo estratti oggi. Ma sono già svezzati. Sì, sono già svezzati. Che bello, che favola, tutti contenti. Se c'è speranza per loro, hanno quattro dita di pelo e sono cani da neve, c'è speranza anche per gli esseri umani che stanno lì sotto. Non voglio pronunciare blasfemia nei confronti dei poveri cucciolotti, anche perché nello studio qui accanto c'è la signora Celentano, con un bel cucciolino che zampetta, scacazza sulla console, quindi naturalmente devo avere la massima considerazione anche per i nostri amici a quattro zampe. Però questa mattina mi avvarrò in questa trasmissione, che spero che avrà il vostro contributo, perché il tema mi sembra abbastanza chiaro. 800240024 per chi vuole partecipare. Avrò, oltre all'ospite in studio, che è Stefano Morigi. Stefano, buongiorno, Gianluca, filosofo, buongiorno, della scienza e spesso nostro commentatore. Anche gli studenti che mi trascino dietro da giorni e giorni, del Master in Radio e New Media Management and Content, che sono quelli che stanno seguendoci, sono attaccati a loro come cozze a noi, come cozza alla roccia, per capire come si fa radio, ammesso che noi abbiamo strumenti per dare a loro modo di capire come si faccia la radio. Anna, che è una studentessa del Master, è qui con me in studio, e da Anna chiedo subito un commento su questa questione dei cucciolotti. Anna. Buongiorno. Allora, a me fa riflettere come prima Quanti cosa... Quanti anni hai, Anna? 25. Una giovane, finalmente una giovane che non abbia i soliti canonici 75 anni dell'ascoltatore medio, dei mezzi di comunicazione di massa in Italia a livello nazionale. Dai, Anna. Penso sia indicativo come nelle notizie, sui giornali, in TV, questi tre cuccioli salvati sotto le macerie del Rigopiano siano diventati addirittura figli, non sono più cuccioli, diventano figli, quasi a umanizzarli. Non perché la notizia del loro salvataggio sia qualcosa... Felicia di Nolfi, si riscopre il concetto di famiglia nel mondo animale, visto che gli animali umani ormai l'hanno abbandonato. Dico, non perché sia negativo il salvataggio di questi tre cuccioli, assolutamente, anzi, però si tende forse a spettacolarizzare questa situazione, forse a perdere di vista il fatto che davvero ci sono 24 morti accertate, ci sono ancora dei dispersi, cioè che c'è la vita umana sotto quella tragedia. Stefano Morigi, abbiamo macchine di riproduzione immediata della realtà, l'avremo sempre più. Ci saranno sempre più persone che l'avranno, avremo sempre più applicazioni e sistemi per essere noi cronisti e rendere epico ogni nostro momento di partecipazione a un evento che coinvolge altre persone. Sì, mentre sentivo Anna che rifletteva su queste notizie, pensavo che i materiali che hai esibito questa mattina possono essere intesi come dei selfie volontari, cioè più che il ragazzo che annega o il cagnolino che è stato salvato, quelle testimonianze parlano e raccontano della anomala e, diciamo così, disordinata emotività di chi ha usato le tecnologie. Le tecnologie in questo caso funzionano come uno specchio, ecco perché parlo di selfie, perché più che quello che ritraggono, raccontano le modalità con cui sono state usate. E credo che questo sia un aspetto su cui dovremmo sempre di più molto riflettere. Ma perché, diciamo, il racconto individuale della realtà a questo punto entra nel mainstream come se fosse un elemento fondamentale? Sulla notizia del ragazzo affogato, ci sono vari piani di lettura. Quale motivo, possiamo dire, la storia del povero ragazzo, quello di tipo etico e di insegnamento civile, razzisti, è vero, è stato spregevole come è stato trattato, le persone stanno nel tretto, commediamente una folla italiana reagirebbe in quel caso, quindi è un racconto di quello che noi siamo, e l'aspetto sempre, diciamo, di lettura di tipo etico, vuole insegnare qualcosa, vedi, hanno ripreso invece di salvarlo. Credo che ci sia un aspetto retorico in tutto questo, utilizzato sapientemente, anche se vuoi, dai mezzi di comunicazione di massa, cioè che la testimonianza del cellulare di un passante racconti la verità meglio di quanto un giornalista potrebbe fare. No, è un po' come c'è stata, se mi perdoni l'accostamento che sarà sicuramente improprio, l'evoluzione del porno casalingo rispetto a quello professionale, perché è apparentemente più autentico. Allora, la testimonianza di un ragazzo che sta lì fermo come un cretino a filmare un ragazzo che affoga invece che salvarlo pare più autentico di quello che un giornalista professionista, con magari delle riprese o con una testimonianza, potrebbe fare, magari aggiungendoci anche un'analisi, un ragionamento dell'accaduto con i suoi mezzi. Do a tempo reale un ulteriore feedback, che sono gli SMS che mi arrivano. Ho detto tante volte, io uso l'intervento degli SMS come prova di una maniera residuale che ancora ha chi non è soddisfatto del fatto di avere totale dignità di rappresentazione del proprio pensiero attraverso i social, che cerca di entrare anche in un programma, non avendo però, ahimè, secondo me, una maturità di gestione del proprio pensiero, della propria opinione, del privilegio che ha di potersi esprimere. Probabilmente la gente ha paura di essere trascinata sotto, con il cucciolo no. Questo è un buon esempio. Hanno paura di essere trascinati sotto. Penso che una città di mare come Venezia, in una folla all'attesa di un traghetto, qualcuno che trovasse un sistema per almeno provarci a salvarlo. Però tra il non buttarsi e stare a filmare c'è un passo che non dobbiamo sottovalutare. Fondamentale. Andiamo avanti di un grado. Nicoletti, questa è vita vera. Si è suicidato un clandestino. Amen, Bruno. Amen è il distico con cui tutti i cinquantenni, sessantenni che entrano in Facebook mettono sempre assieme a buongiornissimo, caffè per tutti, via dicendo, mettono anche amen sulle notizie. Proprio il simbolo della incapacità di gestione della propria, del proprio privilegio di esprimersi. Altra, e arriviamo al punto estremo, i cuccioli vanno salvati, gli uomini no. Non ce ne frega una minchia, così imparano ad andare in vacanze da Belga 5 Stelle, il populismo. Non credo che questo ragazzo fosse in un albergo a 5 Stelle. Sì, parla però dei cucciolotti salvati a Rigopiano, okay. Dice gli umani devono morire perché hanno il privilegio di stare in un albergo a 5 Stelle. È il delirio di certo animalismo famiglia, che conosciamo bene. Allora, invece voglio sentire Fabio, uno degli studenti del master, un suo commento sul fatto del mettersi in mostra ma non mettersi in gioco. Sono Riccardo. Riccardo, mi hanno scritto fa. Allora, vabbè, okay. Comunque, va bene. Secondo me l'aspetto più preoccupante di questa vicenda e che emerge con grande forza è veramente una perdita di sensibilità, no? Dovuta al proliferare di questi social network. La prima cosa che mi è venuta in mente, vedendo le immagini di questo ragazzo che annega, è un parallelo storico, diciamo. Mi è venuta in mente la foto con cui Malcolm Brown vinse il premio Pulitzer nel 1964. La foto rappresentava un monaco che in un ultimo disperato grido di protesta si dava fuoco in piazza a Saigon. Per il famoso bonzo bruciato, io l'ho vissuto dal punto di vista anagrafico, ero già nell'età della ragione, si parlava dei bonzi bruciati come fosse un evento. Esatto, quest'uomo si diede fuoco come per dare voce al suo popolo, alla minoranza che voleva rappresentare. In quel caso la gente accorse intorno a lui, piangeva, si disperava, cercò di salvarlo anche se in realtà non era possibile. Questo, insomma, evidenzia proprio Stefano Morici, una perdita di sensibilità. C'è secondo te un punto in comune fra ragazzo che si suicida nel Canal Grande, l'uomo di massima visibilità per un suo problema personale, e il bonzo che si bruciava a Saigon? No, non lo so, non credo. Però mi piaceva interloquire con Riccardo su un punto che trovo cruciale, cioè quando lui dice c'è un calo di sensibilità dovuto al proliferare dei social network. Ecco, su questo io non sono molto d'accordo. Non sono molto d'accordo nel senso che vedi il mica caso, perché sono giovani, lui per forza posso dire qualche cazzata anche loro, assolutamente, cioè, qua posso, no, sennò già, no, anche noi l'apoteosi del giovanilismo, no, perché è un po' come il cyberbullismo, no? Allora adesso la violenza è scatenata dalle tecnologie. Secondo me le tecnologie hanno questa funzione di ampliare certi fenomeni, ma dall'altra parte di renderli visibili. Non è che prima che queste tecnologie dilagassero noi eravamo degli esempi di sensibilità. Probabilmente non ci sarebbero stati i telefoni, ma quel ragazzo sarebbe morto con degli spettatori che stavano lì fermi. L'opportunità che noi abbiamo da osservatori e da, in qualche senso, sì, studiosi di queste cose, è vedere come questi fenomeni diventano visibili e possibilmente intervenire con delle forme anche di educazione all'uso delle tecnologie e possibilmente anche un termine ottocentesco, ma un'educazione sentimentale che non farebbe mai male. Ammiro la capacità di saper giocare con le parole dei nostri ascoltatori. Salve Nicoletti, salvare il cucciolo è semplice, perché il cucciolo non chiede niente, non rappresenta nulla e fa risaltare la bontà senza interesse del salvatore. Salvare un negro può essere un gesto politico, un gesto per cui non si viene riconosciuti così semplicemente buoni come se salvasse il cucciolo. Detto questo, vediamo dove andiamo a finire con questa retorica razzista a cazzo di cane. Ritorna il cane anche alla fine. Sentiamo gli ascoltatori. Filippo da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno ai suoi ospiti. Io quando ho visto il servizio a me sembra che l'asticella stia sempre più alzando, cioè il limite proprio non ce lo sappiamo mettere. Ma anche la stessa mia moglie, vabbè, nella sua così innocenza animalista, così dice: oh cavolo, i cuccioletti. Va bene, ok, li hanno salvati. Per me era sufficiente dire: li hanno trovati, basta, senza dare tutto questo eco mediatico, servizi, li troveremo. Ma lo sa come accade nelle redazioni? Questa è carina, mettiamola, finalmente, così bellino, alleggeriamo un po'. Così ammorbidiamo un po' l'attenzione di tutta sta vicenda. Qualche animalista sarà tutto contento, però alla fine. Anche da un punto di marketing, sa che il cuccioletto rende, piace. Fa odio, ci fa un pomeriggio la D'Urso su sta roba. No, la D'Urso ieri c'aveva tutta la mappa dell'hotel Rigopiano. Io lavoro al pomeriggio, quindi non è che la vedo molto. Però, insomma, anch'io ci sono rimasto un po'. Allora, per Filippo, fine, dove andremo a finire, signora mia? Massimo, da Como. Massimo. Filippo, pronto, ci sono. Certo. Buongiorno. La mia era una considerazione di questo tipo. tempo. Mi pare, e riporto un fatto accaduto che secondo me ha una ha un parallelo molto vicino a quanto ho appreso da voi, perché questa notizia terribile mi era sfuggita. Vado a teatro il 6 di gennaio a vedere Il Lago dei Cigni. Le persone vivono la realtà attraverso un filtro che non è più la propria visione, i propri occhi, ma un telefono. E non sto parlando solo dei pochi ragazzi che erano presenti all'evento, ecco perché ho detto quale. Sì, ma ormai è una nostra protesi, fa parte della nostra componente organica, inutile dire. Anch'io, se non avessi gli occhiali, non vedrei nemmeno Filippo dall'altra parte del vetro. Ma ci faccio conto. Secondo me, Nicoletti, questa protesi è uno degli elementi fondanti di una anaffettività ormai diffusa. Quindi lei dice quello che diceva Riccardo in studio, è la macchina, è l'oggetto che ci disumanizza, quello per cui invece il professor Morigi è totalmente contrario. L'oggetto oggi fa parte della nostra evoluzione, la nostra umanità è fatta anche di questi oggetti. Ci piacciono. Vilma da Milano. Salve Nicoletti, mi scuso per la voce un po' afona perché sono raffreddata. Allora, io ho seguito la scena del resort, dell'albergo. Posso dirle, mi dispiace moltissimo delle persone, ci ho pianto, inutile dirlo. Tutta la scena, tutto ciò che fanno vedere, a me sembra molto finta. Molto finta. L'unica cosa vera, ma penso finta anche, sono stati i cani che li hanno fatti vedere in bella mostra già quando erano puliti, tutti spazzolati e portati, erano mi pare in una specie sembravano di usciti dal tolettatore, onestamente. Esatto. Sì, però sono cani da neve, loro stanno bene anche nella neve. Sì, sì, ma comunque voglio dire sono autopulenti tutto... molte volte. Hanno il pelo con il sebo che sgrassa e panda via tutto lo sporco. Esatto, ma tutto ciò che mi è parso di vedere lì è stato così esasperato ma per finta. Cioè questi pezzi di ghiaccio, io ho visto a un certo punto che prendevano dei pezzi di ghiaccio, non so dove fossero, ma cubettati bene, e ricordo ancora il ghiaccio quando io ho 70 anni, quando si vendeva, vendevano i pezzi di ghiaccio che spezzavano così. Sì, però adesso sì, io... Sono d'accordo con lei, è una vita che dico che i media fanno una grande rappresentazione reale, non è che veniva il camion del ghiaccio con i ghiaccioli per far vedere, è che la tecnica di salvataggio prevedeva proprio prendere delle sezioni di ghiaccio e scavarsi le gallerie, non andiamo oltre quella che era la realtà, ci fermiamo solo un istante, 800240024, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Melog, cronache meridiane. Oggi è un giorno particolarmente difficile per me. Io per tanti anni ho avuto un mio posto segreto, un posto magico, dove mi rifugiavo quando non ero in diretta con voi, non lo sapeva nessuno. È un posto piccolo, con tanto cuore, dove ho avuto tantissimo amore. Questo posto segreto nel quale sono stata fino alle vacanze di Natale, si chiamava Hotel Rigopiano ed è stato completamente spazzato via. Questa sì che è una notizia. In questo Hotel Rigopiano, che Barbara D'Urso andava a farsi mettere in salamoia nel massaggio ayurvedico all'Hotel Rigopiano, quindi ha un valore in più questo posto, capito? Questa è la cosa che ci dà comunque un elemento in più. Mi scrive su WhatsApp un ascoltatore, è piuttosto lungo, lo sintetizzo. Mi dice, ma perché lei pretende da tutti un commento politicamente corretto? Questa è la gente, ne prende atto la colpa dei giornalisti perché hanno avuto poca onestà nel raccontare gli eventi infilando opinioni personali non condivisibili da tutti. Ma chi infila opinione personale fa bene, e l'opinione personale non deve essere necessariamente alla ricerca del consenso. questo odio per il politicamente corretto, di cui mi rendo conto è giusto, è condivisibile, però non deve portare l'idea dell'imbarbarimento come nuovo valore. Non dobbiamo adesso assistere a una sorta di controriforma, perché siamo stufati di quei signori con le Clark, con le giacche di velluto, con le pezze ai gomiti, che parlavano con la R moscia, che citavano tanti filosofi francesi. Esiste una via onesta comunque per raccontare la realtà, che sia una via mediata. 800240024, parliamo del racconto del reale. Sentiamo Stefano da Cogne. Ciao Nicoletti, faccio un'analisi semplice, cioè nel senso... diciamo che la sua provenienza geografica dimostra che lei è una persona che ne sa di questa roba qui. Cogne è stato rappresentato in tutte le salse, in tutti i plastici, in tutte le villette, è diventato sinonimo comunque di luogo del delitto. Sì, abbiamo avuto fin troppa pubblicità, che poi tutto sommato ha portato anche bene, perché è venuto un sacco di gente. Sì, infatti, siamo quantomeno conosciuti. Quindi è convenuta anche a voi la signora di Cogne? Ma sì, diciamo che parlane bene, parlane male, ma parlano, il vecchio adagio è servito. Raccontare una vox populi. Tutto sommato Cogne è stato avvantaggiato dal delitto di Cogne. Sì, devo essere onesto. No, lo dico onestamente. Quindi a Cogne è vero. I salti di gioia, ce ne fossero una ogni tanto di mamme assassine. No, i salti di gioia no, non ho trovato così tanta gioia. Però è stata vista male, però è da prendere atto del fatto. La villetta che fine ha fatto? È chiusa, la villetta che fine ha fatto? No, la villetta è chiusa, è lì, chiusa. Ma è luogo di pellegrinaggio, la gente va a fare le foto, chiede. Ma a tutt'oggi ancora qualcuno tristemente viene a chiedere della villetta del delitto. Ma esiste un'indicazione stradale, turistica... va alla villetta? No, io mi sono limitato a dire che il bambino ormai credo che non ci sia più dentro, non credo che ci siano neanche le ossa dentro la tomba, cioè è successo, sì. Ormai non è rimasto più niente, più che dire così non puoi fare, la gente ancora chiede informazioni per vedere la villetta, spereranno magari di vedere del sangue all'interno delle porte. Soltanto è talmente conosciuta ormai, è come quando vengono a vedere il Colosseo a Roma, che ancora pensano che c'erano i leoni che si mangiavano i cristiani, evidentemente c'è ormai un'epica che sovrasta ogni realtà. È chiaro, Angelo da Parma. Ah sì, niente, grazie per avermi chiamato. Domenica pomeriggio ma perché ringraziate? Se è lei che fa un favore a me, cioè mi riempie 30 secondi di trasmissione. Io devo ringraziare lei. È lei che ci permette di dire qualcosa, ecco, altrimenti non abbiamo la possibilità. Non è la stessa cosa che scriverlo su Facebook? Io non scrivo su Facebook. Per lei la radio è un privilegio. Avanti, ecco. Angelo. No, volevo intanto dirle che domenica scorsa, nel pomeriggio, stavo guardando la televisione e a un certo punto vedo il conduttore della trasmissione, il signor Giletti, l'elicottero dei carabinieri che sorvola le zone dove sono successe purtroppo tutte queste disgrazie, spiegando che è difficile volare, che non si riesce, insomma ci sono le grosse difficoltà, e a un certo punto intervista anche il pilota dell'elicottero. A me questa cosa qui sinceramente mi ha lasciato scioccato, perché ma sai come funziona? Adesso non è colpa di Giletti, è che i carabinieri ti danno il collegamento, o la polizia, le forze dell'ordine, ti fanno vedere dall'alto, ti portano il giornalista con la telecamera, in cambio l'ufficio stampa chiede un piccolissimo passaggio per parlare di loro. È il dout des abbastanza, in questo caso secondo me innocuo, che si fa per avere un servizio, cioè avere la possibilità di mandare un operatore con il mezzo dell'esercito, delle forze dell'ordine a fare la cosa. Quindi poi l'ufficio stampa dice, però senti uno di noi che ti racconta. È un escamotage, ma è necessario, se non questi giorni, chi ce lo fa fare? Andrea sempre del Master in Radio e New Media Management and Content, che questa mattina sono dei nostri interlocutori privilegiati. Siete in due, Andrea, decidete voi chi parla per primo. Vado io. Vai. Prego. Avevo un appunto da fare al professor Stefano Morigi, che nella prima parte della trasmissione appunto dibatteva con il mio compagno Riccardo a proposito del fatto che i social media oggi in realtà amplificano certi comportamenti, ma non ne hanno creati di nuovi, e l'umanità che rappresentano è la solita, insomma. C'è però un dato interessante: negli ultimi anni, anche se non ci sono dati certi, sono in aumento le morti da selfie, insomma, di persone che rappresentano se stesse, quindi un classico atto di egocentrismo. Forse si schiantano da una rupe, da un belvedere, da un spazio panoramico. Tanto che addirittura sulle rotaie dei treni, soprattutto rotaie dei treni, grattacieli, montagne. Tant'è vero che si sta sviluppando un algoritmo che riconoscerebbe, appunto, a seconda della location inquadrata, i luoghi pericolosi e avvisa l'utente. Non ci sono dati certi, si parla di 100 morti, 200, insomma, non vorrei poi dare dei dati sbagliati agli ascoltatori. Beh, ci sono molti luoghi turistici, soprattutto in India, dai templi, dove mettono il cartello non fatevi selfie, se no morite. A Mumbai hanno fatto delle non selfie zone, perché muoiono tutti. Quindi che domanda fai, professor Morigi? Se questo in realtà non è un cambio di comportamento dato da una tecnologia. Indotto da una nuova tecnologia, esattamente, cioè è un comportamento che è mutato in qualche modo. Stefano Morigi. Sì, io forse mi sono espresso male, non ho detto che le tecnologie non cambino i nostri comportamenti, anzi l'abbiamo sostenuto con Gianluca molte volte, l'abbiamo anche scritto, li riscrivono dentro un contesto totalmente diverso. Però fai caso per esempio quando è uscito Pokémon Go, no? Allora tutti concentrati sul fatto che questi ragazzi o andavano contro il palo della luce perché o si facevano mettere sotto dalla macchina, pochissimi e ancora meno in Italia hanno invece cominciato a osservare che Pokémon Go, appunto, era un esperimento di realtà aumentata, ancora in termini esclusivamente ludici, che cominciava effettivamente, come tu dici, a cambiare delle... o potenzialmente, se non altro. Allora, secondo me è molto più interessante, invece che soffermarsi sull'incidente piuttosto che quello che si fa il selfie e finisce nel burrone, soffermarsi su come si deve, si può imparare a vivere in una nuova ontologia riscritta dalle macchine. Sentiamo un attimo Imelde da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per darmi questo spazio. Ho appena detto, non dite grazie, lei mi dice grazie. Comunque va bene, mi dai, perdoni, mi perdoni. No, è mica, vabbè, sono il padre eterno che deve perdonare. Io quello che vorrei dire è questo. Credo che le nuove tecnologie non abbiano una grande colpa. È sempre l'uomo che ha la colpa. E qui chiamerei in causa anche, soprattutto, certa stampa, certa televisione, che comunicano veramente in un modo dove le barriere sono veramente basse. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi. Che dico le parolacce, dove togliono, non solo le parolacce, anche le tolgono e il peggio del peggio dell'animo umano. Io credo che veramente... Scusi, non voglio difendere i colleghi, è la cifra di quella trasmissione. Dimostra che l'uomo è fatto di quello. No, non è vero, perché l'uomo è fatto in funzione anche a quello che riceve. Scusi signora, io immagino che lei sia una persona timorata. Quando leggiamo notizie dei preti chiavatori e porta alle parrocchiane a accoppiarsi con i cavalli, allora che dice non c'è più il padre eterno? La stessa cosa, è un mediatore che può sbagliare per strada o racconta o incorpora una parte dell'umanità che può cadere, è la stessa cosa. La trasmissione sta alla Barbara D'Urso, sta alla Rai 1 che parlano solo nel pomeriggio quando ci sono i bambini, di omicidi eccetera. E i bambini eccetera. Non li mettete davanti alla televisione, mica il è un obbligo. Ma mi faccia il piacere, ma mi perdono. Scusi, ma lei è padrona della sua televisione. Ma non deve trovare a tutti i costi una spiegazione. Io credo che debba ognuno di noi, soprattutto. Ma la televisione mica è un mezzo di educazione. Mica un mezzo di educazione delle masse. Fanno quello reputano che la gente voglia quel momento. No, questo è solo quello che pensa lei e qualcuno come lei, mi perdoni. Chi sono io? Credo... Scusa, qualcuno come me che vuol dire? Scusi. Io credo lei crede, non che la dubbio. Televisione possa anche essere un buon mezzo invece per comunicare delle cose anche buone. Dei valori positivi. Non solo. Ma scusi, lei c'ha la messa la domenica, c'ha Pietro Angela, c'ha i cartoni animati, c'è un sacco di belle cose. No, non ci stiamo. Vabbè, non ci signora. Si chiama divergenza di punto di vista. Io accetto il suo, lei accetti il mio. Io non ho principi etici da difendere. Osservo, guardo e mi piace vedere quello che vedo. Ci sentiamo tra un istante. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Non ci libereranno. Così scriveva via WhatsApp alle 16.13 di martedì Linda Salzetta, 31 anni di Penne, collaboratrice dell'hotel Rigopiano, dove si occupava di riordinare le camere. In esclusiva News Mediaset le foto scattate da Linda poco prima che la valanga si abbattesse sulla struttura. L'hotel è circondato dalla neve, si vede anche una pala. È una breve sequenza, ma utilissima ai soccorritori per capire dove si trovavano in quel momento gli ospiti dell'albergo. e per finire terremoto. Spero di tornare a casa, scriveva alle 16.09. 800 24 00 24. Adesso abbiamo un esempio concreto di quando entrano in collisione i due mondi. Il mondo del racconto ufficiale della realtà, che la signora poco fa si preoccupava che fosse sufficientemente edificante, e il mondo della spontaneità, quello che l'ascoltatore che mi scrive su WhatsApp mi imputa di voler definire in un pensiero politicamente corretto. Andrea? Sì. Sì, Andrea, su questo episodio so che tu hai un tuo concetto rispetto. Mi ricollego proprio a questi aspetti che sono stati appena puntualizzati. Facci capire meglio il fatto, così lo descriviamo. Vorrei ricollegarmi sempre alla vicenda riguardante l'hotel Rigopiano, focalizzandomi sull'esperienza di questa ragazza, Giorgia, che era ospite dell'hotel Rigopiano insieme al suo fidanzato. Dopo 58 ore di permanenza all'interno dell'albergo è stata finalmente tirata fuori, e questo le ha provocato un sentimento di grandissimo sollievo che lei ha voluto condividere con gli utenti di Facebook attraverso un post in cui ringraziava tutte le persone che le sono state vicine, facendo riferimento anche ai soccorritori. Come spesso accade, questo post ha raccolto delle reazioni anche emotivamente piuttosto forti. Raccontamene qualcuno, dai. È stata per esempio accusata, le è stata rimproverata una totale mancanza di tatto e una totale mancanza di buon gusto nell'esprimere questo senso di rinascita, non considerando il fatto però che ci sono persone che sono morte per l'emergenza che si sta affrontando in Abruzzo, e non avendo rispetto per i familiari delle persone che sono morte o che ancora si trovano in difficoltà. Oltre per il leone emergenza. Da tastiera c'è il moralizzatore da tastiera, che è ancora più virulento secondo me. Ma infatti Gianluca, è questo l'aspetto che a me colpisce, perché nell'attualità dell'epoca che è facile, digitale, come diceva l'ottimo signore, tutti bravi con il sedere degli altri, capito? È facile. C'è da anche casa questo. Dire come devi comportarti quando ti hanno salvato la vita, se è stata ore o giorni interi sepolta sotto la neve. È proprio questo il punto, cioè l'applicazione di un filtro nel modo di comunicare delle emozioni che dovrebbero essere autentiche. E la particolarità sta nel fatto che nell'attualità dell'epoca digitale che stiamo vivendo, se c'è una parola d'ordine è proprio no filter, cioè non applichiamo nessun filtro alle emozioni che noi scegliamo di condividere. Ed è curioso che ci sia questo aspetto fortemente distonico tra due elementi che sono contrapposti, cioè si esorta le persone a condividere in modo autentico delle cose che sono totalmente personali, come le emozioni, rimproverandoli poi di non aver applicato dei filtri al modo di esprimere le emozioni. È molto interessante quello che dice. Aspetta un attimo, confrontiamoci con Antonella da Latina, poi mettiamo insieme gli elementi. Antonella. Salve, buongiorno. Senta, io sono pienamente d'accordo con il vostro ascoltatore, il signor Andrea, se non sbaglio. Il signore ha parlato adesso, è uno studente del nostro master in Radio New Media. Sì. Mi scusi, a proposito di questo, non bisogna mettere dei filtri, cioè parliamoci chiaro, in effetti qui è successa una disgrazia per incompetenza, perché nessuno si prende la responsabilità. Però Antonella. La mediazione giornalistica fa sì che non si dica quello che dice lei. L'incompetenza è tale quando viene certificata da persone che hanno strumenti e autorità per definire l'incompetenza. Il resto è l'azione, è racconto istante. Anche noi, il primo giorno che raccontavamo dell'hotel Rigopiano, abbiamo trovato in rete che c'era stato un procedimento giudiziario dal quale sono fra l'altro usciti assolti e in parte il reato è stato estinto, e quindi quello abbiamo detto. Ma di dire quello, ci sono delle responsabilità, saranno accertate, bisogna raccontare i fatti per quello che sono. Stefano Morigi. Sono d'accordo, perché io credo che... È la differenza fra una mediazione, esatto, e il racconto di pancia. Un professionista debba avere dei filtri per saper dare una narrazione attendibile. Porto due esempi, in qualche modo simmetrici ma altrettanto significativi. Quando uno legge un titolo in prima pagina del giornale, Dio non è abruzzese, oppure in un altro articolo di un giornale di segno, diciamo, opposto, non può essere che il diavolo, ecco, io trovo che questo sia una forma senza filtro, retorica, se vuoi anche di così... Per tentare però di... gioca sulla pancia, e questo lo trovo scorretto, immorale, assolutamente pornografico nel senso che intendevo prima. Si crede di dare una parola di conforto, invece ci si allontana, proprio tentando di essere senza filtro, da quella realtà mediata che dovrebbe testimoniare e certificare la professionalità di un giornalista in quanto tale. Davide, sempre del nostro master in Radio New Media Management and Content. Buongiorno. Allora, notizia di poco fa che al liceo Duca degli Abruzzi a Treviso ad un ragazzo di 18 anni viene sequestrato il telefonino mentre lo stava usando durante la lezione. Il fatto però è che questo cellulare non gli viene restituito da parte del docente alla fine, perché il docente lo aveva messo in cassaforte per consegnarlo poi direttamente ai genitori. In questo modo il ragazzo non è riuscito a contattare i suoi genitori perché erano fuori città, quindi per avvisarli di dove fosse e come stesse, e il ragazzo a quel punto denuncia l'istituto ai carabinieri di Treviso per abuso di potere e sequestro improprio del suo bene. L'avvocato difensore del ragazzo conferma che nei confronti di un maggiorenne queste azioni, cioè l'azione del sequestro da parte del docente, non sono state legittime, perché il docente avrebbe dovuto unicamente limitarsi ad una sanzione disciplinare. Io, leggendo questa notizia, mi... Entriamo in un campo delicato, che è la gestione del diritto, del possesso, della maggiorità, degli strumenti. È chiaro che un ragazzo che fa casino in classe col cellulare, in qualche maniera, gli vada impedito di farlo. Non so esattamente se è un ragazzo maggiorenne, può essere sequestrato e messo in cassaforte il cellulare. Lasciamo perdere l'aspetto giuridico, che non è nostra competenza. Velocemente però, Stefano Morigi, sull'entrata delle macchine di riproduzione del reale e di comunicazione del reale in un set di docenza. Diciamo che se queste macchine fossero usate costruttivamente, i ragazzi stessi le utilizzerebbero in quella direzione e non come strumenti di distrazione, diciamo. Quindi questa è una vecchia storia. Quindi va a priori, va il docente priori, deve sapere classe, gestire dei ragazzi classe, dotati di protesi. Esatto, deve gestirli e immaginare anche dei setting didattici, ci si sta lavorando, come sai, in cui le tecnologie diventino parte integrante di una didattica costruttiva. È odiosa la famiglia che denuncia, ma chiudere in cassaforte e lasciare in cassaforte il cellulare di un ragazzo non è probabilmente la maniera migliore. Patrizia, da Treviso. Buongiorno, signor Nicoletti. Io volevo un attimo riallacciarmi a quello che è la comunicazione, i mass media nelle tragedie attuali. Io sono una terremotata del 76, ero una ragazzina e ricordo, sono cambiati i tempi, giustamente, è giusto che ci sia una comunicazione importante sui fatti che succedono. Al tempo il terremoto in Friuli erano soltanto i media ufficiali che lo raccontavano. Sì, i media ufficiali. Non c'erano nemmeno le TV private in quel tempo. No, no, a quell'epoca no. Però dico, c'è è troppo spudorata la comunicazione oggi come oggi. Non c'è un rispetto per le emozioni, si va sempre a raccontare, si va a dire cose forse anche molto gravi. A me sono venuti i peli d'oca sulle braccia l'altro giorno quando ho sentito dire rischio Vajont. Io il terremoto del Friuli... Perché sai esattamente Friuli, cosa significa. Infatti hanno svuotato il bacino del lago di Capotosto, che era perfettamente in sicurezza. Tanta era l'ondata emotiva di soddisfare. Hanno svuotato un lago che non c'era bisogno di svuotarlo comunque, quindi perdendo tempo. Perché la gente dopo non va a leggere, la gente guarda il titolo. E quando viene citato e detto un titolo del genere, fa paura, perché il terremoto, mi scusi signor Nicoletti, mi ha cambiato la vita. Io sono stata sradicata dal Friuli e sono venuta a vivere in Veneto. Signora, la devo interrompere, non per malizia, ma perché sta finendo la trasmissione, il tempo quello che è che stanno cambiando i tempi nella possibilità individuale di raccontare la realtà e di influire sul racconto della realtà. È l'umanità che deve essere educata alla sua fase digitale, di estrema possibilità di raccontare e di rappresentarsi. Ma questo è un cammino lungo e non saremo certo noi maestri. Alla prossima!